Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo lasciato a metà la nostra conversazione con uno degli ideatori della normativa nazionale sulla certificazione energetica degli edifici, l'ingegner Franco Barosso, che ringrazio per essere ancora con noi. Buonasera Barosso. Buonasera a lei. Dunque, ieri abbiamo spiegato che la certificazione energetica è un documento divenuto ormai necessario in tutti i casi di compravendita oppure di locazione degli immobili e, con alcune eccezioni, qualora si voglia beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di efficientamento energetico. La certificazione energetica è sostanzialmente una fotografia della qualità energetica dell'edificio, che culmina nell'assegnazione all'edificio stesso di una classe energetica, classe A, classe B, classe C, come avviene per frigoriferi, per intendersi. È però venuto fuori anche che nell'attuazione della normativa alcune regioni hanno fatto un po' di pasticci. Intanto siamo di fronte ad una frammentazione dei criteri di valutazione che comportano differenze del 50-60%, che non è poco, e questo è un primo dato. Ma c'è un altro problema, un problema di competenze. Barosso. Come in tutte le cose, ciascuno dovrebbe fare quello che è capace di fare e anche, visto che siamo in Italia, quello che è abilitato a fare. Per cui quando il decreto legislativo 115 dice espressamente che lo può fare solo chi è abilitato, chi conosce bene sia l'edificio che l'impianto, ecco, quando poi vedi che la possibilità è parecchie categorie professionali e non solo professionali, che non si può dire che si intendono sicuramente di entrambi questi aspetti, è come ammettere che si vuole svilire di molto il significato di un attestato di certificazione energetica. Che diventa così un pezzo di carta perché viene prodotto da persone che non necessariamente hanno le competenze per capire veramente quello che stanno facendo. Lei Io dice. Direi qualcosa di peggio, non solo è come dice lei, che è verissimo, ma siccome siamo in un libero mercato e siccome bisogna fare concorrenza, i signori che non capiscono molto e che non capendo molto fanno prezzi stracciati, è ovvio che anche chi è abilitato si sente, come dire, purtroppo spesso invagliato a lavorare a mare e a fare altrettanti prezzi stracciati. Per fare un esempio, si fanno delle certificazioni energetiche per telefono, è corretto? È correttissimo, perché noi sappiamo che così è successo. Mentre ci vorrebbe un sopralluogo serio di qualche ora per capire come stanno le cose. Un elenco come ordine ingegneri di dati che bisogna andare a vedere. Il primo dato è sicuramente il sopralluogo, assolutamente, perché se non vedi come è fatto l'edificio è abbastanza aleatorio poi andare a valutare e a giudicare. Quando si deve fare un ACE si deve innanzitutto tenere conto dei tempi, quindi dicevo, farlo di corsa sembra una brutta cosa, e poi bisogna obbligatoriamente acquisire dei dati, dalla visura catastale al libretto di impianto di centrale, al bollino verde se non c'è, al vano scala se è riscaldato se non è riscaldato, al tipo di combustibile che si sta utilizzando, alla tipologia di impianto che c'è. Insomma, c'è una quantità di aspetti che non vengono effettivamente valutati, quindi rischia di essere un pezzo di carta inutile che rappresenta un costo magari piccolo per quella questione che diceva, ma comunque soldi buttati. È un rischio che noi vediamo che purtroppo non è un rischio, ma è una realtà. Purtroppo non è realtà. Ecco, senta. Chi vorrebbe o che lavora bene, c'è la possibilità anche di lavorare parecchio male, purtroppo. Non sappiamo se e quando ci saranno mai dei controlli che noi a questo punto cominceremo anche ad auspicare. Ecco. Senta, visto che il problema qui diventa quello di distinguere quello che viene fatto bene, perché poi c'è anche chi lavora bene, da quello che viene fatto male, riusciamo a dare qualche indicazione agli ascoltatori per capire se la perizia che si trovano davanti, se questo certificato energetico che magari gli viene consegnato perché stanno comprando casa è affidabile o non è affidabile, vale qualcosa o è carta straccia? È una domanda molto bella, ma a cui è molto difficile rispondere. Io direi i primi input possono essere, come dicevo già prima, il tempo. Se uno te lo fa in 24-48 ore non può essere affidabile, per bravo che sia, quasi mai. Se uno ti chiede 100-150-200 euro non può fare una gran cosa, non è possibile. Se uno non è venuto a fare il sopralluogo non può fare una gran cosa. Se non ti ha chiesto quello che ho citato prima, cioè la visura catastale, il libretto di centrale, quanti piani ha l'edificio, come è riscaldato, cioè, se non ha preso tutte le dovute informazioni, non è granché. Non è possibile che esca un documento centrato. Ecco, serio. Per chi lo riceve, sì, per esempio, che segni può trovare? Ci sono delle raccomandazioni di solito? Sono obbligatorie e non sono facoltative, quattro righe che sono intitolate a raccomandazione. La raccomandazione non è altro che la traduzione di un obbligo europeo che si chiama diagnosi energetica, che vuol dire dare la cura all'edificio. L'edificio consuma troppo combustibile, bene, cosa si può fare per far consumare di meno? E quindi c'è un sottotetto, bene, se lo isoli spendo 1500 euro, ma sappi che questi 1500 euro ti entrano in 1,5 anni. Ecco, se non ci sono questo tipo di indicazioni vuol dire che il lavoro è stato fatto male. Direi che sicuramente se ci sono non è detto che sia fatto bene, ma se non ci sono è abbastanza sicuro che sia fatto male. D'accordo, va bene, grazie Barosso. Grazie a lei, buon lavoro. Bene, questa sera, come avete sentito, i toni di Mr. Kilowatt sono stati un po' polemici, ma non si poteva non segnalare quella che rischia di essere un'occasione persa, ovvero l'avviamento di un sistema serio di certificazione energetica degli edifici. Un numero che non abbiamo citato e che è abbastanza eloquente. In tutta la Danimarca, che ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti, ci sono 600 certificatori. In Lombardia, 9 milioni e 800 mila abitanti, di certificatori ce ne sono 7 mila. Mr. Kilowatt si chiude qui, domani torneremo alle buone notizie e parleremo di solar cooling, ovvero di come raffrescare con il sole. Scriveteci a mrkilowatt@radio24.it. Buona serata da Maurizio Melis.